Gabriele Niola Vasquez, io sono un po' confuso con il caos che ho in cuffia. Per questo io me le sono levate, perché io ormai vado senza, ho l'esperienza. Adesso risolveremo anche questo. Allora, beh, insomma, c'è sempre caos, c'è, vediamo. Dunque, parliamo di cinema, parliamo di quello che è accaduto in questa lunghissima settimana. Dal primo di gennaio ad oggi, che siamo solamente al 9 giorni di programmazione, e Checco Zalone con il suo Quo Vado ha tirato fuori una bomba atomica. Io sto parlando a vanvera, perdonateci cari ascoltatrici e ascoltatori, ma adesso tenteremo di risolvere. Forse ce l'abbiamo fatta, forse. Ma questo solo grazie all'attrezzatura da milioni e milioni che ci troviamo alla qua. Alla altissima tecnologia, non so se hai notato che c'è uno sgabello nuovo, infatti. In pelle umana, nuovo. Ma infatti il mio sedere ringrazia. Sei rimasto sorpreso, di la verità. Porca miseria. Oh, prima di iniziare la trasmissione, parlare di Checco Zalone, volevo darti una grande dritta. Vai. Un sequel. Vediamo. Vediamo. Cioè, adesso io sono tarato verso, con tutto quello che è successo con Checco Zalone, sono tarato verso l'alto, vediamo. Allora, non me lo ricordo più. Ce l'ho. Il Colosso di Rodi. Vabbè, ma non fu un successo nemmeno all'epoca. No. No. Non ho fatto niente. Vabbè, allora ne ho un altro. Vediamo. Il sequel di Quo Vado. Vabbè, sì, potrebbe non è che loro non ci penseranno mai, capito? Tu li prendi di... Li prendo di sorpresa, solo che credo che vorranno dei soldi per i diritti. Ma tu, cioè, tu lo fai tipo Quo Vadis, come quell'altro. Noi volevo fare il remake di Quo Vadis. Allora, ogni volta che accadono queste cose, il paese si divide in due. È una cosa incredibile. I tifosi sono schierati proprio... È tranciante proprio. Guarda, da una parte e dall'altra. Non c'è niente che dà più fastidio agli italiani del successo. Niente. È una cosa incredibile. E tutti quanti dicono: no, ma non è perché ha avuto successo. Io lo odiavo da prima. Già dall'epoca. Già da quando è nato lo odiavo. Quando è nato. È una cosa incredibile. I detrattori sono pochi, perché poi si impauriscono. Dico, a me piace, chissà, magari faccio schifo, no? Oppure chissà che succede. Però in realtà la maggior parte dei commenti sono devastanti. Sì, ma poi... Ora, è ovvio che non è un film d'autore. No, ma non è neanche il fatto che a molti non piaccia, che ci può stare, figurati, sai quante cose non piacciono. È la violenza con cui non piace, che è fuori dalla grazia di Dio per quello che la è. La veemente violenza. Sì, cioè, ufficialmente, per quanto sia un caso economico, non è così rilevante a livello di storia del cinema da scatenare questa violenza. Cioè, sarebbe... Se voi odiaste, dico per dire, se voi odiaste Alberto Sordi, potreste scagliarvi, perché quello è una, come dire, un caposaldo, no? Allora cioè, avrebbe un senso. Ma, cioè, come dire, Pieraccioni ha fatto è stato campione di incassi nel 97 con Il Ciclone, oggi continua a fare film, ma insomma... Beh, all'epoca non c'era il web, però, No, perché era proprio per dire, non è rimasto come un caposaldo della cultura italiana, solo perché all'epoca fece molti soldi. Certo, no, cioè, non funziona così. Il successo economico è quello che è, che, cioè, tanto, perché mica poco, ma insomma, non è che si porta dietro qualsiasi come cosa. Come mai, secondo te, c'è questo schieramento, questo schierarsi in Italia così, per ogni cosa che succede, per ogni cosa che ha successo, eccetera, anche una cosa sana, bella, come che ne so, un film che è una risata, a molti non avrà fatto ridere, a me ha fatto ridere molto poco rispetto al suo precedente, lo trovo molto debole, però insomma, cioè, non mi sento di criticare aspramente, in maniera proprio così veemente, un filmetto che è un semplice film comico, niente di più, insomma. Secondo me gli si dà troppa importanza. Deriva dalla formazione cattolica della nostra cultura, il fatto che sembra che sempre, ogni volta, che nessuno di quelli che hanno molto successo lo merita davvero. Cioè, il problema, quello che fa arrabbiare, è sempre che questa persona che ha avuto questo successo in realtà non lo merita, non è a livello di questo successo che tutti quanti dicono. Che è, secondo me, una questione proprio di quel tipo di formazione cattolica per la quale la benedizione scende dall'alto e viene solo a pochi giusti eletti, mentre invece in altri tipi di culture e di società il successo oggi ce l'hai tu, domani ce l'ho io. Per dire, il paragone che facciamo sempre è quello con la società americana, che è simile a noi ma per altri versi diversa. Per loro il successo è veramente solo un momento della vita che è uguale a quelli in cui fallisci. Fallisce, successo, fallisce, successo, fallisce, successo. Si sale e si scende e non è un problema. Certo. Per noi invece è l'arrivo al paradiso. A quel punto è successo, adesso è fatta, posso morire. E tutti quanti ti danno addosso, dice, perché tu ci sei arrivato? Sì, perché non te lo meriti, non sei perfetto, capito? Tirano in ballo e Bombolo, sì, quando poi Lino Banfi. Paragoni io ho letto senso. Cose, io mi facevo quattro risate quando vedevo i film di Lino Banfi, io credo c'avevi 15 anni. è ovvio, no? Oggi poi uno è cresciuto, se vede un film di Lino Banfi, a parte, diciamo, poche cose, quando va dal dentista che pensa di andare in una casa di tolleranza, non so se lo ricordi, dice, ma lei le tira? Dice, porca miseria che mi tira! Quella è una gag veramente straordinaria, una delle più belle gag italiane, secondo me. Veramente incredibile. Però se ogni volta che succede che qualcuno o qualcosa abbia successo, c'è questo bombardamento senza precedenti. Ora, al di là di questo, usciamo dal bombardamento. Il film è un normale film. Sì, qua, a mio parere, io devo dire che al contrario tuo, io l'ho preferito a Sole a Catinelle. Per quanto Sole a Catinelle mi sia piaciuto abbastanza, l'ho preferito e lo trovo molto molto riuscito nella prima parte. Lì va molto molto bene proprio, in tutta la parte, non so se sapete la trama, lui è un lavoratore medio, quello che da sempre ha aspirato al posto fisso, l'italiano tipico, che vuole sistemarsi e non fare niente, ce l'ha fatta, lavora alla provincia, mette timbri nell'ufficio caccia e pesca ed è l'uomo più felice del mondo, perché può non lavorare praticamente. Praticamente non fa niente la mattina e la sera, arriva lì a mezzogiorno col cartellino già timbrato, sta a casa con i suoi genitori da cui si fa coccolare e non si sposa con la ragazza che ha. Felicissimo. E poi succede che c'è una riforma, devono, come dire, annullano le province, quindi chiudono tutti gli uffici provinciali, lui però non ci sta, vuole rimanere e quindi lo manderanno in giro ovunque per convincerlo a licenziarsi e lui accetterà questi trasferimenti incredibili pur di mantenere il posto fisso. E lo fa con una gioia che almeno si dà. Quando a un certo punto lo trasferiscono in montagna zompetta con le caprette, sono morto dal ridere. Già, comunque, a me devo dire, è un film che bene o male mi ha divertito. Sgombriamo il campo da una cosa. Cinematograficamente è nullo. È un film che non esiste cinematograficamente. Cioè, la videocamera puntata verso chi parla e basta, tutte le gag vanno e vengono da lui, cioè cose che lui dice, non c'è una trovata visiva, un'invenzione, ma anche una battuta che venga da un gioco di montaggio, come nelle commedie più sofisticate, niente di tutto questo, sono una serie di gag, una in fila all'altra. Detto questo, secondo me le sue gag non solo sono divertenti, ma alle volte hanno anche un'idea con una testa dietro. Sì, però ribadisco, io preferisco l'altro, anche se questo qui, devo dire, è carino. Beh, insomma, sono speculari, perché fa vedere. L'altro era sul mondo del lavoro a alta aspirazione, era il contrario, lui voleva essere il grande manager, all'Italia berlusconiana, è l'ottimismo. Invece qui è il contrario, è l'Italia democristiana del tenersi la poltrona. Esatto, un bieco incredibile. Oh, e invece parliamo del fatto che, come mai un film del genere, che non ha nulla di straordinario, possa raggiungere cifre straordinarie come quelle che si sta accingendo a raggiungere questo film, perché parliamo che con tutta probabilità raggiungerà il campione di incassi che fu Avatar, 60 milioni di euro. E Avatar, non solo vi ricordate, fu un grande successo, lo andranno a vedere tutti, ma aveva il biglietto in 3D. Il biglietto in 3D, come sapete, costa di più, quindi tu letteralmente incassi di più col biglietto in 3D. Certo. Ad ora, se non... era un evento, perché esatto, credo fu il primo film in 3D. Non il primo, no, però il primo in pompa magna, diciamo. Adesso, non considerando Quo Vado, se andiamo a guardare la classifica della storia degli incassi italiani, c'è primo Avatar con 60 e secondo Sole a catena con 51,9. Però se noi non guardassimo i soldi, ma guardassimo le persone, quante persone sono andate al cinema, sarebbe primo solo a catinelle. Avatar sta avanti per la storia del biglietto 3D. Da quello che sta succedendo, da come sta andando Quo Vado, probabilmente sfonderà tutti i record, cioè batterà Avatar di soldi, di presenze, batterà tutto quanto, sicuramente, perché ormai ha fatto 20 milioni nel primo weekend. Adesso non siamo ancora arrivati al secondo weekend, siamo solo a venerdì. Come sapete, sabato e domenica sono i giorni, anzi anche venerdì, sabato e domenica sono i giorni in cui si incassa di più. Lui non ha ancora fatto il secondo weekend e già sta a 43. Per darvi dei riferimenti, una commedia normale che esce in mezzo all'anno, so, un film di Virzì, dico per dire, che va bene, quando va bene, fa 5, 6, tutti felici, cioè, si stappano le bottiglie, si va a fare vacanze, eccetera, eccetera. I cinepanettoni, quelli classici di Boldi, De Sica, quelli che andavano, vi ricordate che erano i grandi film dell'annata, quelli facevano 18, 19, 20, 23, mamma mia, 23, ma che grasse! Record assoluto. Zalone in 10 giorni ha fatto 43, già, che è quanto fece in tutta l'arco con Che bella giornata, che era il film precedente a Sole a catinelle. E insomma, sfonderà anche questo record. Tu mi chiedevi perché. Allora, io devo dire, sono una persona veramente onesta. Sì. Che io non ho risposta, non ce l'ho, ma l'ho letta. Perché un'altra persona ha detto una cosa che secondo me è la più intelligente che ho sentito su Mario Sesti, che è un critico, che ha scritto un bellissimo articolo sull'Huffington Post, dicendo una cosa molto vera. Lui parte da una considerazione. Noi abbiamo visto tutti quanti ben 4 film con Checco Zalone, senza considerare poi le gag in televisione, ma diciamo 4 film. Eppure, nonostante lui dica molte cose, prenda molte posizioni, lo stesso noi di questa persona non sappiamo niente. Cioè, di un Pieraccioni, di un Benigni, di tutti questi qua, noi sappiamo come la pensano, che idea di mondo hanno. Quello che mangiano, fidanzate, mogli. Quello che gli piace e quello che non gli piace. Di Zalone non sappiamo niente, perché Zalone se la prende con tutti. Cioè, col misurino c'è un attacco alla sinistra che rompe le scatole, c'è un attacco alla destra xenofoba, c'è un attacco ai grillini, c'è un attacco a chiunque, a qualunque modo di pensare. In quest'ultimo film c'è un attacco agli esterofili, che sono cretini, e poi c'è un attacco a quelli che invece sono troppo attaccati all'Italia, È anche un film antirazzista, perché poi alla fine diventa anche antirazzista. Sì, in questa maniera lui praticamente dà modo a chiunque di farlo proprio. Chiunque può dire Zalone sta dalla mia parte. Mentre un Benigni prende delle posizioni talmente forti, no? Certo. Che c'è tutta una serie di pubblico che non lo può vedere, no? A partito preso. Certo. Mentre invece Zalone è veramente dalla parte di tutti. Questa mi sembra la motivazione più sensata per spiegare questo successo incredibile. E invece parliamo di quello che succederà nei prossimi giorni. Cioè, scatenerà l'inferno. Ancora reggerà ancora, oppure insomma tra un po' crollerà? Allora, a mio parere tiene 2 mesi, come tenne il precedente. Terrà 2 mesi di incassi buoni e arriverà tra i 60 e i 70, farà una cosa del genere. Però c'è una cosa da dire: questo non c'entra nulla, né Zalone né la Medusa, che è la società che lo distribuisce. Si è creato, siccome era molto atteso questo film, specialmente dagli esercenti, le persone che possiedono una sala cinematografica, perché chiaramente questo è ossigeno proprio a boccate piene. La domanda che volevo farti era questa. Cioè, si parla di una ricaduta, grazie a questo film, di una ricaduta sul mercato cinematografico, cioè potrebbe finanziare altri film. Cioè, che cosa significano questi 70, 60, 50 milioni di euro per il cinema italiano? Allora, innanzitutto ho letto che non c'entra nulla da molte parti. Ah, non significa niente, non avrà nessuna ricaduta. Allora, la verità sta nel mezzo, nel senso che la gran parte di questo denaro chiaramente se lo prende chi l'ha prodotto, certo. E quelli sono soldi suoi, cioè ovvero Pietro Valsecchi, produttore della Tao 2 Production, e sono quelli che da sempre producono i film di Zalone e se li prende tutti. Si potrebbe già subito fare una domanda: questa persona che già ha fatto soldi con Sulla Catinelle, che ci ha fatto con questi soldi? Allora, da un lato ci ha fatto un film che probabilmente ha molto... Cioè parliamo del produttore. Sì, il produttore. No, in casa tutti questi soldi, che cos'altro ha prodotto di nuovo, no? Magari... Da un lato ha fatto un film che probabilmente a molti di voi non piacerà, ma che non è un'operazione stupida, è il film su Papa Francesco, Chiamatemi Francesco, che è un film italiano fatto con tutti attori stranieri, da un regista italiano che è Daniele Lucchetti, stravenduto all'estero. Sì. È un'operazione di cinema internazionale non stupida. Non è un capolavoro, lo so che non è un capolavoro, però ha avuto un'idea di uscire dall'Italia, ha usato questi soldi per uscire dall'Italia in maniera non stupida. Due, stanno per arrivare dalla Tau 2, quindi da lui, almeno 3-4 film a fondo perduto. 3-4 film che possono anche fare zero. Mettiti le cuffie perché fischia. Ma... No, adesso vai tranquillo. No, io no. Adesso sì. Vai tranquillo. Dicevo, 3-4 film a fondo perduto. Cioè che possono anche andare malissimo, perché sono stati fatti pensando di far esordire delle persone, vedere che succede, potendoselo permettere, spendendo chiaramente poco, che non è che si buttano i soldi, spendendo poco. Certo. E sono, adesso, tra 2 settimane, il film di The Pills, che sono un collettivo che è nato facendo webserie, probabilmente li conoscete, sono quelli romani che fanno i video in bianco e nero e colori su YouTube. Sono bravissimi, secondo me, veramente bravi. Il film, io ho visto un po' di immagini, secondo me è serio. Tu avevi visto Breaking Bad, non mi ricordo, perché c'è un attore di Breaking Bad, loro si sono potuti permettere... Addirittura, sì, quello pelato? Quello nero, il nero... Ah, il nero, sì. Giancarlo Esposito si chiama, che l'hanno fatto venire dall'America, è stato 2 giorni, ha fatto tutte le sue scene in 2 giorni e poi se n'è andato, e ci sarà lui, addirittura loro erano in trattative con Van Damme, erano in trattativa per avere Van Damme, ma non ce l'hanno fatta, perché veramente voleva troppi soldi, troppi ne voleva, non ce l'hanno fatta. Anche se un po' un cadavere... Diciamo. Lo stesso che devo fare. E poi uscirà il film di Edoardo Ferrario. Edoardo Ferrario va tenuto d'occhio perché è una perla romana. È un ragazzo che è nato nei teatri di Roma facendo stand-up comedy, come i comici americani, no? Sul palco e racconti cose, parli, fai monologhi. È bravissimo. Ogni volta che lui fa uno spettacolo, io ci sono andato, fa il tutto esaurito di un pubblico tra i 18 e i 26 anni, che è un pubblico difficilissimo da prendere, far venire. Che va a teatro? Cioè, no, lui lo fa tipo nelle discoteche, cioè si sta in piedi, diciamo, non stai seduto. Nei locali in cui si esibiscono i gruppi indie quando era più piccolo. Adesso va al Piper, l'ultimo l'ha fatto al Piper, che è bello grosso, quindi si paga pure, fa spendere questi qua, non è semplice. E va alla grande. Ha fatto una webserie anche lui, Edoardo Ferrario, che si chiama Esami. Adesso andrà su Rai 2 in preserale, farà una striscia comica e farà un film che uscirà sempre nel 2016. E poi, so che molti non lo amano, ma in realtà io ho avuto modo di conoscerlo, è molto meglio di quello che non sembri, e spero che il film lo dimostri, farà un film Frank Matano, che ad oggi ha tirato fuori più che altro il suo lato da clown, da cosa, non riscuote troppo successo, o quantomeno lo riscuote molto in televisione e poco al cinema, ma in realtà lui è molto più sveglio di così, io spero che nel film che farà si veda. Insomma, questi 3 film sono 3 esperimenti che sono stati possibili grazie a questo successo, perché io per esempio ho parlato con i Pills, che mi hanno detto che loro erano i primi a essere stupiti del fatto che gli hanno lasciato una libertà incredibile. Cioè loro si aspettavano che, non essendo nessuno e avendo dei soldi da gestire, qualcuno sarebbe stato lì tutto il tempo a dirgli guarda devi fare questo, devi fare così totalmente così. Liberi, tant'è che il film è stranissimo completamente. Infatti vedremo quanto incasserà, non si sa, però queste sono tutte cose che sono state possibili con questo successo. Da un'altra parte le sale invece prendono un'altra fetta di questi soldi, perché il biglietto si fa un po' chiaramente, certo. Le sale ognuna rifiata alla grande, perché alcune, insomma, vanno male, chiudono l'annata in positivo, se non altro. Vabbè, però oramai sono quasi tutte catene, insomma, quasi ma tutti insomma, network. No, ce ne sono parecchie, è vero, ma insomma, sono anche molti, o comunque magari sono network piccoli, di tre sale, esistono pure questi, insomma, che rifiatano parecchio. C'è da dire una cosa, che le sale, a mio parere, un pochino la stanno facendo sporca, nel senso che questo film era molto atteso, sapevano che sarebbe arrivato, sapevano che sarebbe stato un grande successo, che la gente lo sarebbe andata a vedere, comunque, e hanno adottato una politica di prezzi spietata, cioè... Vale a dire? Se tu considera che in un'annata, se tu consideriamo in tutto l'anno, se dividi gli incassi di tutti i film, complesso, con tutte le persone che sono andate al cinema, sì, e fai quindi quanto è venuto il costo medio di un biglietto, in media un biglietto costa 6,22 euro. Che so che molti di voi magari diranno: no, non è vero, perché io li pago tra i 7 e gli 8. Sì, ma magari voi andate la sera, il weekend, magari non siete anziani, non avete la riduzione anziani, magari andate a vedere il 3D. Sì, esatto. Considerate che tantissimi spettacoli, tanti proprio, sono il pomeriggio, sono con lo sconto, tantissimi sono i bambini che vanno a vedere cose e pagano di meno. Insomma, ci sono tantissimi biglietti che pagano molto meno di quello che pagate voi. La media di tutti questi biglietti è 6,22. E diciamo che nel periodo di Natale, io ho guardato i film in linea di massima, un film non per bambini, diciamo Il Ponte delle Spie, quello di Spielberg che c'è adesso, ha un biglietto che costa 6,8, 6,9, più o meno, la media è quella. La media sempre. Zalone sta a 7,33, cioè che è molto di più, in media. Ci sono alcune catene come The Space, che è una catena di cinema, che fanno pagare regolarmente il biglietto 10 euro. Quando sappiamo tutti quanti che se vai la sera lo paghi tra i 7 e gli 8, insomma, certo. Lì si paga 10. Non fanno valere gli sconti anziani, fanno pagare anche gli anziani. Insomma, questo è legittimo, nel senso che è un libero esercizio, un libero mercato, ognuno fa come vuole. Non certo. È che ci sta, ci sono dei limiti, non è che lo puoi pagare 100 euro, no, ci sono dei limiti, ma loro si muovono in questi limiti e va benissimo. Detto ciò, stanno picchiando duro. Cioè... Però è uscito anche in... credo 1000 passa sale, 1300 sale, che non ho mai visto una nessun cosa film è mai stato non solo, no, distribuito, alcune catene proiettato in tutte queste sale. Ho avuto degli esempi, perché c'è alcuni magari che mi scrivono, mi fanno le foto agli schermi, alcune catene proiettano in uno stesso multisala, proiettano solo Zalone, hai 5 sale, tutte e 5 Zalone, che è assurdo, cioè che obiettivamente non è giusto, perché magari tu non vivi a Roma, magari vivi a Lecce e magari, cioè, non c'è tutta questa scelta già di multisala. Già quello che vado è solo un film. Beh, no, magari anche no. In una sala lo puoi fare. Diventa un altro monopolio. Sì, no, ma in generale lo puoi fare in una sala. Ti sta bene 4 sale di incasso grosso e una che sa. Insomma, stanno adottando una politica un po' spietata, che non è il massimo. Detto però ciò, in un periodo di vacche magre come questo, lo posso pure capire, per carità. Però poi quando il consumatore si arrabbia, mica gli puoi dar torto. Detto ciò, c'è da dire una cosa, come sempre, questo vale sempre, quando c'è un film che incassa tanto, quindi Avatar, i film di Benigni, i film di Pieraccioni, ne guadagnano anche gli altri, tutti quelli che escono con lui, chiaramente se sono in concorrenza diretta vanno male, cioè i film di Natale col Boss, Vacanze ai Caraibi, non sono andati benissimo, perché poi è arrivato Zalone, però tutto il resto sale. Perché si crea, un po' si crea il fatto dell'andare al cinema, tutti vanno al cinema, un po' c'è un fenomeno che capita moltissimo, che è: vado, sono arrivato fino a qua, la sala è piena. Vabbè, che faccio? Vado a vedere un altro. Esatto, questo è un altro. Oppure, vado al cinema perché lo voglio vedere, ma la mia ragazza, io non ci vengo, allora me ne vado a vedere un altro. Insomma, c'è più gente che entra nei multisale e quindi ne beneficiano tutti i film. È comunque un toccasana un po' per tutti. Solitamente, vedremo se questo caso... c'è anche un po' una coda, poi a un certo punto quando il film non sarà più in sala, qua vado, comunque le commedie italiane andranno comunque un po' meglio, perché si crea come un pregiudizio positivo per i film, che influisce per un po', quindi è secondo me indubbio che un film del genere, un successo in generale, un grande successo, faccia bene al cinema, sicuramente, per quanto poi, e questa è una verità, 60 milioni, che è quello che farà, equivalgono più o meno a 8-9 milioni di spettatori effettivi. E 8-9 milioni di spettatori non sono gli spettatori del cinema, cioè non è quel pubblico. Per fare quelle cifre, devi non solo avere molta gente che lo va a vedere due volte, ma devi anche avere tutta una serie di persone che vengono e che non vanno mai al cinema. Vanno a vedere solo quello. Cioè, che vanno al cinema e vanno a vedere solo quello. Esatto. Il pubblico del cinema, tutto insieme, quello che va in sala una volta al mese, una volta ogni due mesi, quello che ci va abbastanza. diciamo tutto insieme può fare 16 milioni di incasso, può far 10 milioni, 16 milioni, questo tipo di incassi può generare. A 60 hai attirato mia nonna anche, hai attirato tutti, hai attirato veramente. Oh, io vi ricordo i numeri, se volete mandare messaggi anche su WhatsApp, il numero è lo stesso, 340-360-5299, sia SMS che WhatsApp. Guarda qua, guarda qua, mi sto facendo un prontuario di tutti gli incassi di Zalone giorno per giorno col costo del biglietto. Oh, farbacco. Tutto calcolato, perché a me non la si fa, a me non la si fa. Ma guarda che roba. Precisetta proprio. Porca miseria. Signora mia. Numeri alla mano. Carta canta. Insomma, sciorinata l'ondata che si protrarrà ancora per un mese, tu dicevi? Due. Lo scorso per due mesi? L'altro film sulle HTL rimase in cartellone. Cioè, insomma, diciamo, l'ultimo cinema lo smontò dopo due mesi circa. Per cui immagino pure questo, se non di più, se non due mesi e mezzo, insomma. Però insomma, dalla prossima settimana le sale caleranno. Sì, no, sicuramente sì, perché è così sempre, cioè non rimangono uguali. Però insomma, da 1300 fa quanto canta? 1000? Comunque tantissimo, cioè tanto. Comunque sono numeri a cui non siamo abituati. Comunque lo troveremo in tutti i cinema, secondo me, per due, tre settimane ancora. E comunque, viva la faccia. Ma veniamo ai film che sono usciti questa settimana. Perché, niente, tra l'altro, no, sono usciti dei film a suo modo interessanti. Chiaramente non ne succede nulla di grosso, perché nessuno si mette contro Zalone. Ti consiglio, però, di vedere su Netflix, io oramai guardo solamente il web, The Marine, con John Cena. Ah, va a riprendere la moglie, sì, sì. Capolavoro! Capolavoro! È una cosa straordinaria, Giancina. Ha una sola espressione. Grande. Ha sia... una costanza nel mantenerla. Sì, sia per accendere, che ne so, la televisione col telecomando, sia per far esplodere o per saltare mentre esplode una mina sotto i suoi piedi. E lui si salva sempre perché è indistruttibile. Che grande. È sempre quella stessa espressione. È una cosa incredibile. Dunque, cioè, bellissimo. Poi in questi film d'azione uno non si rende conto di questa gente quanto è grossa. Io l'ho visto in una commedia. Lui fa una particina in una commedia. Lui è un wrestler, no? Sì, sì, esatto. Gli fanno fare questa particina, eh. E rispetto agli altri, alle persone normali, gli attori comici che hanno fisici normali, è una cosa fuori dalla grazia di Dio. Sì, è enorme. Una roba come se fosse fatto con l'argilla, capito? Cioè, l'avete fatto male, gli è venuto troppo grosso. E poi ti consiglio 3D. No, 3. Head Shark Attack. Ah, grandi, quindi tu sei specialista di questi film, caro mio. Brevemente la storia di uno squalo che ha tre teste, quindi mangia tre volte. Fine, questo. Fine. C'è anche Danny Trejo, ho detto giusto, sì, Trejo. Danny Trejo che fa una parte di un minuto, cioè sta su una barca, tira fuori il suo machete, taglia la testa, una delle tre teste allo squalo, pensa di averlo ucciso, arriva sulla spiaggia felice e beato, ma lo squalo, incredibilmente, da quella testa gliene nascono altre quattro e se lo mangia. Quindi allora, da sei teste diventa. Diventa uno squalo a sei teste, è una cosa bellissima. Bellissima. C'è da dire che i protagonisti sono ridicoli. Strano! Sono veramente ridicoli, cioè non ho mai visto recitare così male un essere umano. Chi l'avrebbe mai detto? Veramente. Allora, veniamo ai film questa settimana. Allora, questa settimana escono dei film che, ve lo dico, alcuni non sono male. Ci sono un paio di truffe che ora vi dico. Allora, la prima truffa, quello che secondo me dovete evitarlo, non fatevi fregare, non è quello che sembra, è La Grande Scommessa, che è un film con Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling e Steve Carell. Grandi star. Porca miseria. Esatto, sembra fatto per essere divertente, per essere figo, cool, invece non è niente di tutto ciò. È un film da un bravo regista di commedia che si chiama Adam McKay, che ha fatto per esempio Anchorman, ha fatto una serie di commedia molto carine, che vuole fare un film sperimentale, vuole sperimentare tecniche strane. Quello che racconta il film è la vera storia, romanzata chiaramente, di quattro persone separatamente che tra il 2006 e il 2008 avevano capito che sarebbe arrivata la crisi finanziaria. Loro l'avevano capito. Non ci potevano, non gli sembrava possibile, perché poi, come sapete, questa crisi finanziaria ha preso tutti di sorpresa, perché nessuno pensava che banche di investimento così gigantesche potessero fallire. Però loro, dai loro calcoli, gli risultava, e cominciarono ad investire in questo fallimento per 2 anni, perdendoci. C'è stato un altro film del genere, però di cui ora non ricordo il nome, dove un ragazzo scopre attraverso dei calcoli che ci sarebbe stato il crack. Non mi ricordo. Ma tra l'altro un film molto famoso con attori famosi. Insomma, il lato bello del film è che è una storia vera ed è molto forte come queste persone abbiano cercato di mettere alla prova la loro teoria. Cioè, loro avevano calcolato questa cosa, ma non gli sembrava vero, e loro la volevano mettere alla prova. E andavano negli uffici a parlare con le persone, a dire: ma voi cosa avete investito? Andavano alle grandi banche a dire: ma dove avete messo i soldi? E tutto gli risultava. Dicevano: ma questi sono pazzi. E quello che esce fuori è che è il risultato di una serie di investimenti da parte di tantissime persone scriteriati, pensando che tutto sarebbe andato comunque bene, che nulla poteva andare male, c'era una fiducia nel sistema capitalista che avrebbe retto qualsiasi stronzata, che ha fatto crescere il sistema. Però il film è fatto molto male, ve lo dico, è un film noioso, è un film che non riesce, poi l'argomento è difficile, cominciare a spiegare i mutui subprime, le cose, è molto complicato. È anche avvincente, però devo dire. Però devi saperlo spiegare, quello è il punto. Certo. Il film secondo me non ci riesce, ti annoia molto. Dall'altra parte, un'altra truffa che la stanno promuovendo veramente tanto, perché vogliono far andare tutti al, secondo me, vogliono far andare tutti al primo weekend per evitare che poi si scoprano cos'è, è Macbeth, il film, che chiaramente è l'adattamento dell'opera shakespeariana con Marion Cotillard e Michael Fassbender, che stanno promuovendo come un film di carne e sangue, come un action movie medievale con uomini duri, spadate, colori sparati, insomma una roba veramente dura d'azione, non è assolutamente niente di tutto ciò, è Macbeth, fatto anche abbastanza fedele, quindi anche con una lingua particolare, parlata in un italiano tradotto dall'inglese, chiaramente molto particolare, insomma vi lo dico, io sono uno, mi ritengo uno di stomaco forte per i film noiosi, ma questo mi ha messo alla prova proprio, mi ha veramente dato. The Vatican Tapes, il film di esorcismo, ormai il film di esorcismo è veramente un genere a sé, si sta separando dall'horror e sta andando veramente a prendere un suo spazio. Questo è un film di un grande regista, perché è il regista di Crank, un grandissimo, ah cavolo, Mark Neveldin, grandissimo, che però l'hanno costretto a fare questo film in cui sono tutti fermi, perché c'è una legata a letto, ovviamente, certo, sono tutti come l'esorcista, chiaramente c'è una legata a letto, il prete, esatto, il prete, che la cosa è, per cui non c'è vera azione, in quelle tre, che sono tre scene di numero, in cui si corre, sembra Crank, sembra subito, figo, corre, forza, bello, le prese dinamiche come li fanno loro, che sono bravissimi, però invece il resto è un film di esorcismo che non mette neanche vera paura, perché vogliono fare, poi verso la fine vogliono fare anche un franchise, chissà se ce la fanno, cioè vogliono, lasciano pensare a un seguito, capito, perché lui accede nei film di esorcismo moderni, c'è cioè una cosa che non c'era nell'esorcista originale, che invece da dopo Dan Brown diventa obbligatoria, è gli intrighi vaticani, capito, perché il Vaticano vuole nascondere questa cosa, allora lui accede sotto a San Pietro alla zona con tutte le carte, i faldoni del Vaticano segreti, pieno di segreti vaticani, che agli americani gli piace tantissimo questa cosa dei cardinali che sembrano dei mafiosi, capito, esatto, che fa alludere a un seguito, vabbè, insomma è un film da poco. Invece te lo dico, a me mi ha stupito veramente a solo, che è il film, adesso voi mi metterete tutti quanti a ridere, ma ve lo giuro, il film da regista di Laura Morante, che io non gli davo 2 lire a Laura Morante regista. Beh, c'è Francesco Pannofino, c'è Marco Giallini, c'è il grande Marco, attenzione, dobbiamo mettere l'aggettivo prima, è vero, c'è il grande Marco Giallini. Insomma, però è un film scritto da lei, diretto da lei, io non pensavo fosse capace, aveva già fatto un film in precedenza che si chiama Ciliegine, però era una coproduzione francese e sembrava un film proprio francese, io pensavo gliel'avessero fatto i francesi, invece questo, che è un film italiano al 100%, anche questo somiglia un po' alle commediole francesi, se vi piacciono, chiaramente vi devono piacere il genere, ma è fatto molto bene, crolla un po' nel finale, insomma c'è un po' un momento nel finale che muore, insomma, però insomma viva la faccia, io ve lo dico. Se parliamo delle commediole, quelle di medio livello, come se ne fanno tante in Italia, ma questo è molto meglio, insomma, ha molte più idee, ha molte più scene, non è quei film un po' miseri che lo vedete che sono stati fatti tutti quanti. Miseri non deve morire. Che sagace. che sembrano fatti tutti nello stesso ambiente. È un film con un sacco di location, un sacco di riprese diverse, un sacco di invenzioni. Veramente, chi l'avrebbe mai detto? No, non c'è proprio nel box office. No, perché esce oggi. Ah, ancora non ha avuto modo. Ah, e poi lascio un film che dovete andare a vedere. Ah, qui su questo dovete andare a vedere tutti perché è stupendo. Perché il film è uno dei film più belli che è uscito assieme nello stesso giorno di Checco Zalone, perché non ha speranze. Cioè, così proprio vai a morire, caro. Si chiama Little Sister. È un film giapponese bellissimo. Lo so, è la vita di tre sorelle. Queste tre sorelle che vivono da sole, perché nella casa della madre, quello lì è il 16° classificato negli incassi. Vivono da sole nella casa della mamma, perché la mamma se n'è andata. Lo so, ma è bellissimo. 28 schermi. Un po' meno di 1300. E vivono da sole, hanno tre caratteri diversi, sono tutte tra i 20 e i 30 anni. E decidono. Il film inizia che devono andare al funerale del loro padre, che si era fatto un'altra famiglia. Vanno a questo funerale in un'altra città e incontrano per la prima volta la loro sorellastra, cioè la figlia che il padre ha avuto da un altro matrimonio, che ha tipo 15 anni. Siccome morto gli il padre, un po' è rimasta da sola in un'altra città, senza parenti, loro gli dicono, bah, vieni con noi, abbiamo una grande casa dove viviamo in campagna, fuori Tokyo, vieni con noi. Ed è un anno nella vita di queste quattro sorelle che vivono da sole. È un film, se vi piace questo tipo di film di famiglia, film di una delicatezza, è veramente bellissimo. A me mi è piaciuto moltissimo ed è quel genere di film che quando, siccome non hanno proprio un intreccio, non è che c'è una trama che finisce. Telecamera fissa, ore e no, ore. No, anche no, no. Anche no. Molti dialoghi, sono quei film che siccome raccontano la vita delle persone, in teoria, teoricamente, potrebbero andare avanti anche per sempre. Dura un'ora e mezza, non vi crediate. Però insomma, è quei film che tu vorresti davvero non finisse. Ti dispiace quando è finito perché andresti avanti a guardarlo ore, tranquillamente, tanto ti piace. Senti, invece il film sulla mia giovinezza? Il piccolo principe, il prequel di questa trasmissione. Oh, il piccolo principe, un film molto atteso perché il libro del piccolo principe è amatissimo da tutti quanti. Io stesso devo ammettere, non pensavo, quando poi lo lessi, io l'ho letto tardi, a 24-25 anni. Quando l'ho scritto. Esatto, e l'ho amato tantissimo, anche io devo dire. Il film, ve lo dico subito, non gli fa giustizia, per niente, per due motivi. Uno, perché non è la storia del piccolo principe, cioè è la storia di una bambina che legge il libro del piccolo principe, che già è diverso. Due, perché da metà in poi hanno un'idea completamente folle, che è fare il sequel del piccolo principe. Ah. Cioè da metà in poi lei va nel mondo del libro, però dopo la fine del libro, capito? Quindi il piccolo principe che è cresciuto, che è successo, capito? Ed è una cosa totalmente folle, cioè che non sta né in cielo né in terra, bruttissima. Come vi è venuto in mente di fare una cosa del genere? Detto questo, c'è un cast di doppiatori pazzesco, da Servillo ad Accorsi a Favino, a chiunque, l'ha doppiato veramente chiunque. Paola Cortellesi, perché tutti quanti si volevano associare un po' al piccolo principe, che è un brand potente, figo, intellettuale. Però insomma, io, se siete avanti del libro, un po' ve lo sconsiglio. Abbiamo parlato di Natale col boss? Natale col boss, oh, no. Secondo me no, perché ci sono state le vacanze e non c'eri, sì. Ho parlato io così. Natale col boss è il film con Lillo e Greg. Tu poi l'hai visto? Non mi io l'ho visto, sì. Devo dire che rispetto agli quando ultimi, ci sono loro, esatto, rispetto carino, agli ultimi, loro resto, però emergono un po' di più. Perché se ti ricordi l'ultimo che hanno fatto, che si chiama Un Natale Stupefacente, si chiamava l'ultimo, un anno fa chiaramente, loro emergevano poco, non sembrava roba loro sostanzialmente, sembrava che avessero in bocca parole di altri. Mentre invece questa volta, quando loro sono in scena, e non quando è in scena l'altra coppia del film, che sono Paolo Ruffini e Francesco Mandelli, è forte, cioè ha le loro gag, sì, e quindi è divertente. Sì, sì. L'idea di base è un'idea che aveva avuto, me l'hanno raccontato, l'aveva avuta Greg. Cioè, tutto il film nasce con Greg che dice... Oh, ma pensa se uno si fa rifare la faccia come Leonardo DiCaprio e poi però capisce Peppino Di Capri. E questa, intorno a questa cosa ci hanno fatto il film. Peppino Di Capri è anche bravo. Dai, ci sta Devo un sacco, dire sì. Ci sta un sacco Peppino Devo Di dire Capri. Sì. Detto questo, insomma, non... Questi sono film che nascono con delle aspirazioni di sbancare il botteghino, ma non è cosa. Non ce l'hanno fatta. No, mi sembra che non abbia quel tipo di potenzialità. Fatto totale 7 milioni. Che è sempre onorevolissimo, però sei uscito anche nel periodo di Natale, attenzione. Vacanze ai Caraibi, che era la controriforma, Vacanze ai Caraibi era facciamo un film come i vecchi tempi, Ha fatto lo stesso. E ha fatto esattamente la stessa cosa. E si diceva che questo qui, quel format, quello dei cinema panettoni classici, era morto. Quello delle vacanze, no, in giro per il mondo, la bellona, le chiappe, le gag col pisello che rimane incastrato nella portiera. Che c'è anche quella. Si diceva che fosse una formula morta. Invece ha fatto esattamente lo stesso incasso di Natale col boss. Anche il Ponte di Spia ha fatto, insomma, un bel incasso. Beh, è proprio un bel film. Non so se l'hai visto. Molto bello, esatto, molto. Proprio. Sono rimasto molto colpito. Ecco un filmone. Buongiorno, ecco un filmone. Sì, fatto molto bene. È una di Steven Spielberg e voi direte, frega, ti credo che è bello e ci avete ragione. È una storia, bene. Anche qui, una storia più o meno vera, romanzatissima, però il personaggio è veramente esistito. Tra l'altro, se c'è qualcuno di sufficientemente attempato all'ascolto, è una cosa che andò sui giornali, cioè è una cosa che se ne parlò moltissimo. A un certo punto la Germania, il regime comunista prese prigioniero un americano, e queste trattative per liberare l'americano, che ebbero luogo nella Germania, Berlino, che era divisa, anzi stavano proprio costruendo il muro in quel momento, tennero banco sui giornali per tantissimo tempo. Questa è la storia dell'uomo che fu mandato lì a fare la trattativa. È divertente, si ride anche divertente, intelligente, bello, è veramente un filmone girato molto bene. Sono delle scene sembra di stare veramente in Germania all'epoca della guerra fredda, interpretato alla grande da Tom Hanks, che è l'uomo perfetto per queste parti. E veramente sono quegli attori che quando tu gli dai un compito in cui sono bravi non sbagliano mai. Bravissimo. Preparatevi, chiaramente, sappiatelo, è un film americanissimo, cioè grande America, vincono grande, gli americani, esatto. Un po' siamo meglio noi, però insomma io sono sempre del parere che pensate a John Wayne, ecco. Esatto, io sono sempre del parere che è sbagliato pretendere di voler cambiare la testa agli americani. Noi accettiamo, almeno io, accettiamo i turchi, gli spagnoli e i giapponesi come sono le loro stranezze, ma non gli americani col fatto che sono nazionalisti. Insomma, a me diciamo che non dà fastidio questa cosa, secondo me non infierisce, e il film è molto molto molto bello. Ce la farà Leonardo DiCaprio a vincere l'Oscar con Revenant? Se non ce la fa stavolta, non ce la fa mai. Ma tu l'hai visto? No, lo vedo questa settimana. Lui viene a Roma, tra l'altro. Sì, lo so, mi ha chiamato. Lo sapevi che dice questa canzone? Lo sapevi che l'avevi detto? Sì, lo aspettavo. Lo aspettavo come un bassista aspetta il lancio di batteria. Insomma, il film Revenant, io ancora non l'ho visto, ma veramente si annuncia molto bello. Io dalle immagini che ho visto ti levano il fiato. E rispetto alla corsa all'Oscar di DiCaprio, non solo ha fatto... Lui ogni volta aggiunge un tassello. Prima aveva fatto un personaggio preso dalla storia vera come J. Edgar Hoover, ma non l'ha vinto. Poi aveva fatto una parte molto esagerata come quella di Wolf of Wall Street, e non l'ha vinto. Lì se lo meritava, però. Però sono tutte cose che... Quel film è bello, Bellissimo, bellissimo. Sono tutte cose che solitamente ti fanno vincere un Oscar, però con lui non funzionano. Ma perché? Guarda, non lo so. Odiano. C'è proprio un'avversione. Adesso ne ha provata un'altra ancora, però veramente estrema. Cioè, è stata quella di Revenant, questo film qui con DiCaprio, una lavorazione senza senso, piena di problemi, in cui, per esempio, per dirne una, questo è un film che non ha luci finte. Cioè, voi sapete che sui set, quando riprendono, ci sono accanto alla videocamera le luci artificiali per illuminare. No, tutta luce naturale, cioè con la luce del sole. Quindi si gira solo quando c'è il sole, ma non solo. È un film girato tutto al tramonto. Quindi si gira una o due ore al giorno e basta. Per cui dovevano provare. Ci sono delle scene di massa, scene con 70-80 comparse. Vuol dire che devi provare tutto prima, saperlo fare alla perfezione, e poi andare al polo, perché è stato girato al polo. Al polo nord. Nei ghiacci. Sì, non proprio il polo, però insomma a quelle altezze, diciamo, tra i ghiacci devi andare e farlo lì in un'ora di tempo tutto preciso, che è incredibile. Lui è dimagrito tantissimo, ha fatto delle scene che tipo si mangia un pesce vivo e l'ha fatto davvero, una serie di cose clamorose che io spero che nel film paghino, perché spesso quando tu le fai sul serio le cose invece che fingerle, nel film si vede, paga, è forte, gli dà un film una bella potenza. Io spero che sia questo il caso. Attore. Adesso non vorrei dire che sono ignorante in materia, no, però lui è molto a me bravo. Sembra molto bravo. Guarda, lui è veramente molto bravo. Lui si porta da anni il pregiudizio che il bello è scemo, da che ha fatto Romeo e Giulietta, Titanic, si porta tutto questo pregiudizio, ma in realtà è bravissimo. Penso, io ho sentito un'intervista al regista di Revenant, Iñárritu, che dice... È Iñárritu che parla con altri registi, parla con Tarantino, con Ridley Scott, fanno questo incontro, e lui dice a questi qua, alcuni dei quali hanno anche lavorato con DiCaprio, Cioè, che DiCaprio è incredibile, perché non è solo un bravo attore, perché ce ne sono tanti di bravi attori, ma è un uomo di cinema. Cioè, è uno che sta nel giro da quando ha 13 anni, più o meno, 10-13 anni. Ha fatto un monte film clamorosi per l'età che ha, pazzesco. Ed è uno che conosce perfettamente tutta la macchina del cinema, perché è uno con cui tu puoi parlare non solo della sua parte o delle sue scene, ma anche dell'illuminazione. Alle volte ti dà dei consigli e dice che non sono scemi per niente, anzi, magari certo, mi hanno fatto pure svoltare. Cioè, una persona proprio con una conoscenza e una competenza del proprio mestiere grandissima. Beh, avendo fatto tanti anni di cinema, porca miseria. Un'altra cosa che ha fatto, che solitamente ti fa vincere l'Oscar e lui invece no, ha fatto il cattivo, uno che fa sempre il buono. Con Django ha fatto il cattivo, sì. E non è servito neanche là, perché lì l'ha vinto Christoph Waltz, stesso film, altro attore. È proprio una maledizione. Allora, ho visto Il Piccolo Principe con due bimbi, uno di loro sta finendo di leggere il libro e comunque ci si è immedesimato, il che mi fa essere in disaccordo con te. Va visto, ed è una fortuna che un film, soprattutto il libro tale, possa arrivare all'essere popolare, non solo a ceti borghesi che si fingono proletari. Cioè, buon anno, Anna. Un po' me l'hai cantata, Anna, perché in effetti non hai torto. Poi anche una cosa del genere è vero che evangelizza, no? Spinge magari a leggere il libro, è vero. Però diciamo che se lo conosce l'hai letto, ma insomma io sono rimasto molto deluso, ecco. Ah, e poi questa settimana esce Carol. Carol è un film bellissimo, è un melodrammone in costume, anni 50, struggimenti, non se ne fanno più. Guarda che è veramente perfetto. Se siete amanti dei melodrammoni umidi, questa è una storia anche lesbica. Carol, Kate Blanchett e Rooney Mara, Carol è il titolo del film, di Todd Haynes, che era quello che aveva fatto Lontano dal Paradiso, sempre per amanti dei melodrammoni. È veramente un filmone, quello l'ho visto passato a Cannes alla grande. Sherlock, l'hai visto? No, lo vedo questa settimana perché esce settimana prossima. È uno special televisivo su Sherlock, la serie, quella con Benedict Cumberbatch. Non è un film? No, tu non l'hai vista la serie della BBC? Cioè, scherzi? Certo, no, è una puntata speciale. Certo che l'ho vista. Infatti, che cavolo. È una puntata speciale lui che va bravissimo. Al cinema. Sì, lui è veramente bravo. Tra i migliori Sherlock in assoluto. Sì. Perfetto. No, il vero, mi sa che ne abbiamo detto settimana scorsa, lo diceremo rapidamente, Creed è il vero film, anche io lo vedo questa settimana, è il film che racconta, adesso voi sarete un po' casati, racconta la storia del figlio di Apollo Creed, lo sfidante di Rocky. Sembra una stupidaggine, ma tutti quanti quelli che l'hanno visto mi dicono è un filmone, una delle migliori interpretazioni in assoluto di Sylvester Stallone, che fa un ruolo marginale qui, perché chiaramente il protagonista è il figlio di Apollo Creed. Stallone fa Rocky, chiaramente, che lo allena, ma pare veramente una roba sensazionale. Ci va a botte con gli altri detenuti. Ciao, Donnie. Per me tuo padre era un grande. Non lo conosco, non abbiamo niente in comune. Secondo me puoi diventare un grande anche tu. Perché vuoi combattere? Mio padre era un pugile, è morto prima che io nascessi. Sbattuto in affidamento, dentro e fuori da riformatorio. È tutta la vita che combatto. La mia non è una scelta. Lo vedi questo qui che ora ti guarda? È il tuo avversario peggiore. Chi altro c'è? Secondo me è vero sul ring come lo è nella vita. Vuoi lasciarmi anche tu? Sai quante volte mi sono caricata il campione del mondo dei pesi massimi su per le scale perché non poteva camminare? Costole rotte, naso rotto, occhi chiusi e gonfi. Di chi hai paura? Ho paura di usare il suo nome e di perdere. Mi darebbero del buffone. Senti il peso della sua ombra. Ogni mia mossa, ogni pugno che darò, sarà paragonato ai suoi. Tu sei il figlio di Apollo Creed. Usa quel nome, è il tuo. È spuntato da nulla, non ha mai affrontato nessuno. Parli, ma che sai di me? Che sei finto, Creed. Se fai così, finisci in un casino. Che ti prende? Ehi, qualcuno mi aiuti! Rocky sta male. Però, dal trailer, insomma, sembrerebbe interessante. Sì, se ne parla molto bene, sono molto curioso perché come tutti anch'io sono un grande appassionato. Venerdì ce lo racconterai? Beh, sicuramente. Si dice Ignarritu si dice. Ignarritu. Sì, hai ragione. Hai ragione, quando hai ragione, hai ragione. Comunque, DiCaprio nella lingua sua è ancora meglio. Per me il doppiatore non gli fa un favore. Questo è vero, come è vero per tutti gli attori. Nel senso, chiunque con la propria voce è meglio che con la voce. Anche Schwarzenegger, che recita molto peggio dei doppiatori italiani che lo doppiano, sono gli attori molto più bravi. Lo stesso, secondo me, ha più pregnanza, più presenza, perché è la sua voce, viene dal suo corpo e non da quello di un altro. Oh, altri film, Vasquez, oppure ce no, ne andiamo? No, questi sono i film della settimana. Ce ne andiamo, mettiamo. Questi sono i film della settimana. E allora ci vediamo venerdì prossimo, stessa frequenza, stessa radio. Io resto qui fino alle ore 21, ancora per due ore. Pensate un po' che sfortuna che avete voi ascoltatori, ma avete la possibilità di cambiare canale. Ma non fatelo, altrimenti vi esplode la radio. Grazie Vasquez, alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.